La regola d'oro. Leggo nella Bibbia in Matteo capitolo 7, versetto 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Leggo ancora in Matteo 22, versetti 34 a 40. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». La cosiddetta regola d'oro in forma positiva, come in questo caso, oppure negativa, non fare agli altri ciò che non vorresti, richiama un concetto presente non solo nella Bibbia, ma in molte culture e religioni. Un esempio della forma negativa è la famosa frase attribuita al rabbino Hillel qualche anno prima di Gesù, in risposta ad un pagano il quale lo aveva provocato invitandolo a riassumere la legge nel tempo in cui lui avrebbe resistito stando in piedi su una gamba sola. Questa fu la risposta di Hillel: «Ciò che ti è odioso non farlo agli altri. Questa è tutta la Torah, il resto è commento. Va e studia». Gesù espresse questo concetto in forma positiva verso la fine del messaggio conosciuto come Sermone sul Monte, quasi a voler riassumere i concetti che aveva espressi fino a quel momento. Quella frase in qualche modo sarebbe servita ai suoi interlocutori per comprendere lo spirito dell'intero messaggio. La forma positiva è senz'altro più forte perché chiama l'uomo all'azione, ad agire nei confronti del prossimo, a fare del bene piuttosto che ad evitare solo di fare del male. In fondo Gesù ci chiama a fare quello che lui ha fatto per primo, agendo in maniera pratica in favore del prossimo. Inoltre, fatto non trascurabile, Gesù affermò che il concetto espresso in quella frase era in fondo lo spirito che animava la legge e i profeti, ovvero le scritture. In effetti, nell'altro brano che abbiamo letto, Gesù, nel rispondere ad una domanda dei farisei circa il più grande comandamento, espresse un concetto analogo affermando che la base su cui si fondava l'ubbidienza alle scritture, quindi di nuovo la legge e i profeti, era l'amore che si ha verso Dio, con tutto il proprio essere. Ma non a caso aggiunse proprio un secondo comandamento che riguardava l'amore per il prossimo. D'altra parte, se vogliamo piacere a Dio, se diciamo di amarlo, qual è il modo migliore per mostrarlo, se non quello di mostrare amore verso il nostro prossimo? Le nostre relazioni orizzontali non sono forse lo specchio della nostra relazione con Dio? Se ci pensiamo bene, Gesù ha dato il massimo esempio di cosa voglia dire fare agli altri ciò che vorresti ricevere, dando la sua vita per l'umanità affinché noi potessimo avere vita godendo i benefici di tale sacrificio. Tutti siamo contenti quando qualcuno ci fa del bene, ma siamo disposti nelle nostre relazioni interpersonali a spendere la nostra vita per gli altri? Ci fa magari piacere che qualcuno ci aiuti e spenda il suo tempo con noi, ma siamo noi stessi disposti ad investire il nostro tempo, ma anche il nostro denaro o altre risorse per il bene del prossimo? In fondo Gesù ci sta sfidando a fare proprio questo se vogliamo ubbidire a Dio e alla sua parola. Amando il prossimo, trattandolo come noi vorremmo essere trattati, mostreremo anche il nostro amore per Dio. Quando riflettiamo su queste cose ci rendiamo conto allora che nella sua semplicità la regola d'oro non è solo una regola di vita come tante altre, ma costituisce davvero una cartina al tornasole, un indicatore del nostro rapporto con Dio. Pensiamo alle nostre relazioni interpersonali sul lavoro, in famiglia, nella chiesa. Come cambierebbero se tutti cercassero di applicare questo principio? Sarebbe una bella rivoluzione, vero? Perché allora non cominci proprio tu, adesso, magari con il tuo coniuge o con altre persone vicino a te? I benefici non tarderanno a manifestarsi.